attenzione, canale 5. Senta un mio romano di Vasco Sierra, Sardinia, Italia, che va chiamando. Attenzione Sardegna, attenzione Sardegna, stiamo ascoltando qua la Sicilia, sud orientale. Pappa Gappa. Attenzione Sardegna, si ascolti la Sicilia, sud orientale. Attento Sicilia, si ascolti la città di Sassari, nord della Sardegna che fa chiamata. È l'operatore Delta Romeo della città di Sassari. Attenzione Sassari, Sassari ascolti Sicilia. Gappa che ti ascolto al 100% Sicilia, ti ascolto molto bene, dai, se continua così la propagazione siamo a dama. Buonasera, dai, 7351, l'operatore Gianni doppio room che ti super cordializza, va. Gianni, buongiorno e ben sentito per la primera. Benissimo ascoltato, qua la stazione Radio Zero, operatore Corrado, una stretta di Palette, saluti, qua Pacchino, provincia di Siracusa, Sierra Romeo. KK, Pacchino, per sentito, cordialità anche a te, dai. Oggi diciamo che la propagazione dovrebbe essere favorevole per noi, per le isole, in quanto c'è un bel tempo, soleggiato finalmente. Sì, positivo Gianni, positivo al 100%, ma noi qua possiamo parlare per il diretto, da parte tua segnale 9, radio 3, 4, e la cosa è positiva, avanti Gianni. Cappa, lo stesso segnale c'è tu, con quanti watt stai uscendo? Ma sto andando con l'incirca 150, 160 watt. Cava, cava, dai, io sto scendo con un galante Saturnecco, i watt sono 9 watt e sto andando alla grande, dai, sono contento. Sì, positivo, perché sicuramente la propagazione è da voi verso noi, non da noi verso voi, comunque l'importante è che ci ascoltiamo. Io qua vado con un Intec che dà 4 watt e con un tubo Aristocat, insomma, una cosa del genere, va. Con un tubo sono, va. Ah, il Jumbo Aristocat, che ho già avuto anche io, dai, nella CTE. Sì, positivo al 100. Com'è il tempo lì, Gianni? Il tempo oggi è migliorato, c'è sole, si sta bene. Ho fatto una campatina in moto, a fare un giretto, si stava abbastanza bene, dai, non ci possiamo lamentare, dopo tanti giorni di pioggia si è ristabilito il tempo, almeno credo, almeno che sia un sole che ci inganni. Oh, no, dai, il tempo deve andare a migliorare Gianni, non può andare indietro, ormai deve andare e come la sera, dopo la mezzanotte cosa fa il tempo? Va sempre a spuntare il sole, va. Non può andare indietro, Gianni. Cappa, dai, che dobbiamo mangiare le angurie quest'estate per le mature. Sì, positivo, ma già qua le stanno raccogliendo le angurie, ah? Già è un 15 giorni che le raccolgono, da voi non ci sono ancora le angurie? No, negativo, ancora no. Ancora no, perché qua ha fatto brutto tempo, te l'ho detto. Normalmente quando fa bel tempo le raccolgono prima, ma ancora, anche se ci sono, non sono buone, dai. Non sono buone, non sono belle rosse. Che positivo Gianni, qua è da 15-20 giorni all'incirca che le raccolgono e si vede in giro, io ancora non le ho assaggiate, forse che non ci vado parte, perciò per me è indifferente, va, comunque le ho viste in giro. Le ho viste in giro amici che io lavoro in campagna e ci sono amici che ce l'hanno posto, non le raccolgo, le fanno, comunque c'è il prezzo, per ora vanno corti come prezzo, va, avanti Gianni. Cava cava, no, invece io a comprare ci vado matto, quando torno accaldato a casa mi fa un piacere immenso mangiare una bella fetta di anguria fresca. Sì, positivo, positivo, sì. Possibilmente uscita dal frigo con il limone premuto di sopra e la cosa è tutta rogera e uno mangia altro dolce, va, al punto giusto, Gianni. Cappa, non mi dispiace non prendere i meloni quando sono buoni, dolci. L'anno scorso è stata un'annata sia per i meloni che per le anguille che erano favolose, non ne ho trovato uno che era cattivo, tutti buoni. E posso dire, no, ma i meloni, lo sai qual è il problema dei meloni? Il problema dei meloni ora non sono tanto, perché cercano sempre di sfruttare la situazione, sfruttano con le coltivazioni, volte per sfruttare il tutto. Ora, con questi regioni ci sono quelle cose, va. Una cattiva non la troverai. Non lo so, ma dipende anche dal terreno, dal tipo di melone, dai. Anche quello, il terreno a volte è il seme che contano. Ci sono quelle qualità di qua che sono dolci come il miele. Sì, forse Dio, voglio quelle qualità ci sono. Ci sono un sacco di qualità. La qualità migliore come ora è il Farao, si chiama Farao. E poi un melone che si fa le circa 25 kg, 20, 25 kg, e quello è il più buono di tutti, perché è dolcissimo, è rossissimo e tutto. La qualità che non è buona è l'immersato. L'immersato è impostato sulla zucca, viene tagliata la zucca, viene immersato il melone di sopra, e quando si sta nel corpo, è contento questa cosa. Cose come la zucca di arancione, capito? Si mescola il rosso con l'arancione, questa è sempre rosso e non è succulenta, non va bene, va bene. Ecco, fai vedi, infatti noi quando il melone è duro diciamo sembra zucca. Sì, è positivo perché è innestato Gianni, sulla zucca. È vero. Ma io ho notato che quelli che hanno quelle crespature, io non mi intendo di qualità, ma ci sono dei tipi di melone che hanno quelle crespature bianche sulla buccia esterna, che sono i migliori. Sì, molto dico, perché quando c'hanno la crespatura fuori bianca, è maturo al 100%. Quella crespatura bianca che tu dici, quando diventa un pochettino giallina, cioè il melone non va bene perché è passato, e tu di dentro non lo trovi rosso. Lo trovi già che sta ritornando nella ragione, capito? Perché è passato ormai, non va bene più. Cavolo. Vabbè. E comunque le culture nostre sono più o meno uguali. Culture di pomodori, belli dolci, angurie, melanzane, tutta questa roba qua, più o meno la Sicilia. Sì, diciamo è un'isola come la Sardegna, quindi soleggiata, è la roba di qualità. Io posso dire, no, noi per i meloni siamo un po' scarsi. Siamo forti per i meloni anche, ma siamo scarsi perché noi puntiamo di più sul verde, sul pomodoro per l'insalata, che forse non lo so se lo sai, il pomodoro quello col pasto, come si vuol dire. E poi siamo forti anche per il ciliegino, noi abbiamo le cistine di palchino. E insomma per queste cose qua, o per le altre cose non lo so, avanti Gianni. Eccoli a grappolo, dai, li coltiviamo anche noi qua, sono buonissimi ma molto cari. Cari per chi li compra, per chi li produce no Gianni. Beh certo, il produttore avrà anche bisogno di guadagnare qualcosa, no? per vivere. Tu ti devi fare il conto, caro Gianni, che quando il pomodoro è capo. E comunque in base agli altri, io sto parlando in base agli altri tipi di pomodori che magari sono scialbi, se fai insalata non hanno un gusto dolce come quelli lì, capito? E gli altri costano molto meno, ma non valgono a niente, preferisco mangiarne poco e mangiarla bene la cosa. Ti sto perdendo, ti sto perdendo, K. Attenzione Sicilia, se ascolti la Sardegna. Hola. Hola. Vedi? Hola, quelli sono arrivati, va. Hola, hola. Vedi, va, hola, vedi che è basso, basso. Se va a fondo scala, qua vuol dire che c'è qualche cosa non te ne ha. Non te ne stanno, ma attenzione canale 5. grazie, che vuole dirti a voi. Buonasera. Beh, il seminario. Il seminario. Certo che lo vuole. Sì, mi sogai. Il lavoro e la virtù dei furti. Saluto anche l'amico Ditti, eh. Ah, Pavario, ben entrato. Bene, ha soltanto dopo tanto, sto entrando poco e nulla, di salute no, è abbastanza buona, capito? E così che non vogliamo appretendere molto. Dopo anche larga e giovane, perché ormai non sono un anno, due anni, tre anni, dieci anni oltre al triplo dietro a questi giocattoli. Io ormai li chiamo giocattoli. Mario, però fa sempre piacere ascoltarti. Mario, lo sai che è sempre piacere ascoltarti. Sì, anche a me fa piacere, ma quando non ce n'è più voglia, quando non ce n'è più voglia, è poco di salute e cose varie. Allora, già faccio qualche cosa, qualche ascolto così, col ricevitore però, col ricevitore. Mi ascolto un po' di fuori, da fuori, dall'estero, compagnia bella e via dicendo. Mario, non ti abbattere, Mario, non ti abbattere che la vita è bella, non ti abbattere, Mario. Beh, naturalmente la vita è sempre un amore, un tesoro, bisogna mantenerla a proprio livelli e tutto. Avanti l'amico Ditti. Ricevevo bene io, lo stavo proprio accendendo quando ha chiesto il controllo, lo stavo mio parchetto dentro, quando mai mi sono seduto e non riesco, non lo saluto. Capa Mario, lo sai che mi fa sempre piacere, mi fa molto piacere, niente, lo sai cos'è Mario, io sono piccolino, non ascolta nessuno a me, no Mario. Non è vero, già sei abbondante, già, anzi sei abbastanza tranquillo, tu sì, modulando, no, capita mia, tu e te, okay, tutto va bene, tutto. Ma avevo sentito che stavi facendo un diese, la cartolina, mandatatela. Ma guarda, non voglio usare male, già lo sai. La cartolina non me l'hanno mandata, ma non c'è problema Mario, vabbè, magari non ha copiato bene le mie coordinate, ma non c'è problema, vai, ho tutto Roger qua, quando capiterà di nuovo io riferirò il mio tutto e poi vedremo un po', perché io le coordinate le ho date più che giuste, anzi oltre sono andato a quello che dovevo andare. Naturalmente, no, io non ne ho fatto più, dopo magari sono pure geniati, sono diventati, capito, se quando ascoltano dicono che sei dalla Sardegna, anche loro hanno capito, non è che vogliono più la cartolina in cartone, ma piacere la vogliono in sugaro con il costume nostro della Sardegna, di qualsiasi paese. E così che oggi sono un sacco di soldi, prima era tutto diverso, era a casa non si faceva arrivare nulla, ci avevamo una casella postale col numero di casella, magari non avere le spese tutte complete, quella casella eravamo 4-5 persone, eravamo, chi andava prima a aprire prendeva tutto e ce la faceva recapitare a casa, capito? Nel magazzino ce n'ho due cartoni, ce n'ho di queste coscelle, senza quelli che ricambiando regali e cose varie. Già va bene Mario. Vabbè, non me ne interessa più di tanto, se vogliono rispondere rispondano, se no facciano come ben Dio crede, cosa mi ha detto? Fascista, purtroppo, vabbè, fa piacere che mi ascoltino perché fa piacere, poi se non vogliono rispondere, fascista, non è che a me questo apparato, questo giocattolino, quello che chiami tu, non mi dà mangiare, Mario. Guarda un po' a vedere, E quello è tanto no. Una volta, ripeto, ho sempre le stesse parole, era un amore, un'armonia, c'era un'associazione, c'era tutto, se qualcuno sbagliava prima di fargli quello che si doveva fare, a noi si mandava una letterina con due righe scritte a comportarsi così, orandi, dopo c'era più controllo le poste, c'era la macchina in circolazione delle poste e si controllava di più. Oggi è tutto cambiato. Kappa, purtroppo si è un po', diciamo, sporcata tra virgolette, ma va bene, accettiamo quello che è, meglio se ci vuoi fare, pazienza, ma comunque così dai, cosa volevo farci, purtroppo la 27 è sempre stata così, da che mondo è mondo. Ah, io sono 20 anni che mudo e ne ho sentito ricordare bene di crude, Mario, purtroppo è così. Naturalmente bisogna accettare le cose, ma sorvoliamo. Attento l'amico Dittiri. No, forse sta cambiando ancora, Bella questa radio che sta uscendo, fa che... Ti piace, Mario? Bella, proprio un bombò, proprio ottimo per la truppa. Vabbè, posso anche ringraziare una buona antenna, dai. Una buona antenna, perché l'antenna conta quanto l'apparato, Mario. Ma che antenna ti avevi messo? La mancava 3. Scusa. Aspetta un attimino. No, niente. È entrato l'amico di Itiri, Mario. Vedi un po', fa un passaggino se ti ascolta. Attento l'amico di Itiri. Sì, siamo su 5, l'amico di Itiri, dai. Ti ringrazio a Mario, dai, se l'ascolti, avanti Mario. Attento l'amico di Itiri, da questa parte Mario, che ti chiamo. No, se stai modulando non stai uscendo, di noi, non ci ascolta, fa quello che le pare, le piace. da questa parte Mariamao. Così che qui, con questo qui arrivi molto più bene del radio. Dammi un controllo a me, perché poco fa non mi sentivi. Va bene, allora tutto. Ma che te ne hai? La manta turbo. Ma la manta turbo è buonissima. Già è buonissima. Io sto facendo con la manta 4, capito? Ascoltano tutti bene gli amici di Usini, di Itti e compagnia bella, capito? Già è tutto bene, un cappa. E allora lascia così, non voglio attendere molto con la Mantova Turbo. Non è come la Mantova 3, capito? È tutto per la posizione molto, molto buona per me. Avanti, perché? Cappa, no, volevo chiedere a Tore gentilmente se potevo farmi un controllo radio segnale, dai. Cappa, no, diceva, va bene che l'amico è un po' distante da me, io sono più aperto per le tue coordinate, ma già va bene così, è importante ascoltarci, Tore. Assolutamente no, io ti posso dire che c'è una bella radio e può confermare anche l'amico Mario, vero Mario? Sì, sì, Ottore, adesso ho aumentato qualche cosa io, come migliore la radio. Positivi e picchi negativi. cosina c'è che non va, confermi Mario? Sì, sì, confermo, e anche qualche volta si abbassa anche un po' di radio, controllo a vedere. Hai copiato tu? Sì, dovrebbe essere centrato, non vorrei sbagliarmi, ma Mario è centrato? Mario? Dimmi. È centrato di frequenza dove? Sì, buono, buono. A me mi arriva come segnale, mi arriva per come mi arriva il segnale, la radio è molto, molto più bassa, capito? Che a me mi arriva qua 9-10 di segnale. Capatore, a Mario gli arrivi 9-10 di segnale. Aspetta che provo a pompare un po', se aumento. Guarda un po' come sono adesso, sono aumentato. Aumentato. Sì, adesso è aumentato tu, è aumentato. Dai, non lo spingere, ma torno ai 104, non sale fino a 150. Va bene? Sì, va bene, confermo Mario. Sì, lascia così tu, per la lontananza che siamo vai molto bene, capito? Vai molto tutto bene, sposta appena appena il collo e la levetta. No, rimetti come era prima, è migliore. Ah, così stai dicendo, ma non posso stare sempre a paletta, causa alimentazione, più c'è un più ampere, meno ci vogliono più ampere. Ok, va bene, io vado a vedere se il brasiliano è salito, capito, perché sono tutti a letto, riposando, e mi ho messo la caffettiera a fare un po' di brasiliano. Capatore, buon brasiliano Mario, buon brasiliano. E ci avevo anche il volume un po' basso per Tore, mica c'è stato un break, fallo entrare e io guardo la caffettiera come sta andando. Capa Mario, avanti il break. Ciao Antonio, buonasera. Saluttoni, ciao Mario Mao, Vera KP2. Che mi super saluta, saluto anche Tore da Inti, che mi ascolta, rimette il tutto all'amico Antonio, vai Antonio. Capa, salutoni, ben entrato Gianni KP2, in compagnia di Mario, che sta facendo un po' di carica caffeina, editore che ha fatto un attimino di bianco perché sta chiudendo un po' tutto l'apparato. Bene, bene, dai, ben ascoltato, ben tutto Gianni, avanti. Ok, Antonio, io Antonio prima lo ascoltavo, poi è aumentato, non so cosa stia facendo. Cosa si dice di bene, Antonio? Cosa si dice? Qua siamo in attesa di qualcuno che parli. Se avevo bisogno di trabacco, sto facendo anche altro trabacco fuori qui. E quindi sì, no, la stazione c'è sempre. A solito tutto ogni tanto si accende e ci sono gli amici che ti affaccia per salutarti, ti prendi a tu. Gappa, sta un po' uscendo un po' saturo, si è attaccato. Sì, aspetta che mi ok. Ok, adesso è tutto ok, normale. Positivo, dai, più comprensiva la voce, dai. Perfetto accento. E allora che si racconta Gianni? Se me lo lasciano un po', ma non ci credo. Chi è? Gianni? Ti hanno, so, se hai parlato ti hanno un po' sovrappopolato. Gianni, fallo quella gola, approfitta di queste belle giornate. giornate. Anche dei capi d'antenna e dall'alimentazione. anche un po' stanco, perché ieri addirittura ho lavorato in un lavoro privato tutto il giorno e niente, e ci accontentiamo di quello che passa il governo, diciamo, eh. Poi ho ricevuto anche delle proposte per le tasse, mi hanno chiamato due ditte di autoservizi, ma addirittura la cittadinanza che mi conosce, perché sono venuto in autoservizi in Sardegna. Bancarotta, un macello. E tutte quante quest'anno, queste cose. di noi, nel nostro piccolo italiano, andiamo incontro a tutti, però c'è una cosa da dire anche, che bisogna pensare anche un po' agli italiani. Batterie che ci ho fatto al mente e ci sono tre so perché l'ho letto tramite giornale, ma sono rimasto, guarda, libito, perché, ma come fa una, cioè un negozio che si è attrezzato a chiudere battenti 448, cioè mi sembra assurda la cosa, cioè a parte, vabbè, la crisi che c'è, ma lui era proprio uno che era super attrezzato di tutto e non mancava niente. Ha iniziato pian pianino a licenziare il personale, piano piano, ha fallito, non saprei neanche cosa dirti, guarda. Io, cioè, non glielo chiedo perché lo conosco a lui più di 30 anni, da quando lavoravo all'impresa, che non c'era quello fuori cammini, però si apprezza, diciamo, cosa vicino alla piazzetta, non la cosa che lo ricorderai, a come buoni, lo conosco tanti, tantissimi anni, però non mi permetto di richiedere, se lo chiedo con il successo. E solo mi dispiace perché andavo a cercare l'impossibile e lo trovavo, e se non c'era pepa lo attori. Da chissà che poco le domande ci avevi spesso. Infatti. Già cosa vuoi dirci? Mi sa che il mondo sta andando a rotoli. Ma se si può immaginare tutto quello che sta succedendo, adesso per colpa di quella nube sono rimasti bloccati 5.000 voli, 5.000 voli, 5.000 accidenti. Guarda, e ci stai perdendo anche in Italia questa roba, perché ho visto la televisione così superficialmente, perché c'è mio figlio che va da un canale all'altro, hai capito, quando è a cielo non c'è ascolta le mani, il telegiornale in intero, e ho visto che stiamo andando in una cosa che, guarda, proprio stiamo là, quindi non stiamo andando a rotoli, appunto. È così, non si sa più che fine faremo, la verità. A me mi dispiace molto per i nuovi nascituri, perché si è stato quelle persone, guarda, conosceranno la fame non vorrei scendere dalla fame del 43, 44, 45, ma siamo lì, Io una volta papà mi ha detto, ripeto, ho lavorato alle ferrovie dello Stato per 40 anni e hai capito, mamma ci aveva un'attività di generi alimentari quando ancora il negozietto di generi alimentari nel paese lavorava prima era di nota, poi di nota è andata in pensione, ha già pensione di validità e per fare i contributi del corso per me e poi per non chiudere tutto è capitato in una nota, allora non c'era città mercato, non c'erano segni la piazzetta, non c'erano di questi supermercati, bene, si lavorava. E il papo se lo diceva, personali vedrei che la gente troverà la povera campagna, perché diciamo a buona festa la petrochimica, tutti erano alla petrochimica, che si aveva il petto di terreno, aveva abbandonato, non si piantava neanche il prezzemolo, prima si piantava le patate, le cose, faceva le cose, tutto quando la roba mi venuta, sapevamo il dovere, prese più domani, sono andati a coltivare la campagna, che ci siamo e ci siamo su. Cappa, si conferma già, si conferma, è beato chi ha un pezzo di campagna, beato chi ha un pezzo di campagna, perché guarda, stiamo arrivando ai punti proprio che, io mi ricordo la morale di mia madre quando mi diceva che si bisticciavano per la buccia delle patate, figura del poco. Delle patate, di questa roba, di questa roba. qualche cosa, perché ripeto, anche non si può comprare più una che tutto è caro. Sì, si conferma, purtroppo così già. Purtroppo è così, purtroppo la vita sta diventando più dura di come sembrava. Vabbè, che ci volevo fare? Pazienza. Io ripeto, se avessi avuto un pezzo di campagna me l'avrei tenuto stretto, oggi non ti dico come, no. A parte il fatto che è tutto caro e non è mai più una cosa genuina come si mangiava un tempo, adesso tu prendi qualsiasi cosa, tipo finocchi, zucchino, questa roba, non ha più il sapore di prima, è tutto cambiato da là a Z. Ma io me ne accorgo l'altro giorno. Ciao. ciao, ciao, ciao, ciao.